Dallas Internazionale. Qui è il volo 343. L'aereo è sotto controllo, ma i due piloti sono morti. Chiediamo aiuto. Volo 343, c'è interferenza, vi sentiamo male. Siete autorizzati ad atterrare sulla pista 1L Nord. Ho bisogno di aiuto e istruzioni. Sto seduto su una bomba che potrebbe detonare all'impatto. Volo 343, c'è interferenza, non vi sentiamo. Zitenti! Uh-huh, 2010, Lil Buck e funziona così. E lo sai, Fat MC, Mixed Drippers. Ed ora giù da quelle nuvole, il contorno è tutto azzurro. Non c'è niente attorno a me, non capisco, è tutto assurdo. Scendo dritto qua in picchiata con il vuoto totale. Sembra un sogno, non ci credo, mi provo a pizzicare. I minuti non bastano e non penso più ai cash. Quando è la morte dritta in faccia, la sì che passano i flash. Passato, presente, futuro, dimmi che ti importa. Per me è solo tempo perso, ricordarli un'altra volta. Mix, Slipper, qua ringrazio Fat MC. Scrivo lettere in pigiama perché sai che qua è così. Nuovo sound, nuove strofe, nuovi stili, racconti underground e vi sento inammissibili. Tra le parole false come libri degli autori, cambiamenti nella scena e non vedo più i valori. Non mi aggrego a quattro babbi, non rimango nel disagio, perché ho sempre piedi a terra e sto affrontando l'atterraggio. Se ci riuscirò, centro questo atterraggio. Se lo colpirò, so che non andrò a fondo. Se mi tuffarò, 89 cerco la torre di controllo e sto cadendo verso il basso con la mascherina al collo. Mentre tutti fanno tuffi dentro ossigeno rinchiuso, io preferisco l'atterraggio di chi sbatte il proprio muso. Resto chiuso in questa camera iperbarica che gravita tra il mondo di chi blatera e chi invece qui fa pratica. Si butta da un'altezza media dando le facciate, la stessa bassezza metrica dei palchi alle serate. Dalle grate osservo questo da un punto di vista astrale. So che sarà duro l'atterraggio come non volare, quindi l'overkill è il mezzo che usiamo per sorvolare. Le facce di merda e finti convinti che sia banale, man. Mettiti una maschera e metti il giubbetto ermetico. Ora che tutto sta bruciando, sento odore di sintesi. Non predico ma medito, servo sistema in flow. Troppo metrico e sollecito perché ci riuscirò. Peace. Se ci riuscirò, centro questo atterraggio. Se lo colpirò, so che non andrò a fondo. Se mi tufferò nel vuoto di un miraggio, non mi fermo. Invece questo impasto di amido e fluoruro, gli scarafaggi se lo mangiano. E dopo qualche giorno te li trovi in giro grassi come porci. Hai capito, Bill? Se vuoi mettere su peso, devi passare dalla tua dieta di polvere gialla a qualcosa di buono a base di fluoruro. È adatta per le fessure. Non è roba salutare. Poi non ce lo vedo mangiarsi polvere gialla. Ma lui non la mangia davvero. Ci fa solo dei giochetti. Comunque, non respirate talmente tanto che ormai non può fargli niente. Proprio come gli scarafaggi.